Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Pensate che cosa succederebbe se i tetti degli edifici pubblici fossero convertiti in parchi ed aree verdi e pedonabili, luoghi dove i cittadini si possono incontrare e di cui possono usufruire liberamente. Potrebbe, insomma, apparire un'idea un po' paradossale o anche solo naif, invece può essere un'ottima idea, come testimoniano tre progetti che il Premio Internazionale di Architettura Barbara Capocchina ha appunto premiato o segnalato quest'anno. Sentite. Degli edifici si dice di solito che sorgono dal terreno. Non è certo il caso della nuova sede dell'Università Femminile di Shincheon, in Corea del Sud, progettata dallo studio James Corner Field Operations, in collaborazione con altri architetti, la quale, invece, si presenta come una sorta di intaglio, una fessura che penetra nel fianco di una collina, dando vita a una piazza, che insieme costituisce l'accesso all'università vera e propria. Quest'ultima, una struttura allungata che segue l'andamento naturale del terreno, è poi ricoperta di giardini pensili e costellata di luoghi di ritrovo, come un teatro all'aperto e un giardino con sculture, frequentati dagli studenti, ma anche dagli altri abitanti della città. Simile dal punto di vista concettuale è la soluzione scelta da Hamid e Francisco Maguen per il nuovo Dipartimento dell'Ambiente della città di Saragozza, in Spagna, dove, sfruttando la pendenza naturale del terreno, è stato possibile riprogettare l'edificio in perfetta continuità con la topologia del luogo, in modo tale che il tetto dell'edificio potesse configurarsi come un'estensione dello spazio pubblico, accessibile a tutti. Beh, insomma, che un edificio pubblico apra anche il proprio tetto ai cittadini è certamente, insomma, di per sé una buona idea, perché in un certo senso è un modo per raddoppiare la superficie della città destinata ai parchi, destinata ai luoghi di ritrovo, superficie che oggi è un bene scarso in città. Ma l'agritettura, questo è il nome che viene dato a questo tipo di coltivazioni pensili, porta anche molti altri vantaggi. Ce li spiega Stefano Corniati, professore del Politecnico di Torino, che è esperto di questa materia. Ascoltiamo. Ci sono vantaggi di tipo energetico e ambientali che sono visibili a due livelli, su una scala urbana e su una scala di edificio. Quelli di scala urbana sono sostanzialmente legati agli effetti di riduzione dei fenomeni di surriscaldamento urbano, grazie all'azione del verde attraverso i propri fenomeni di evotraspirazione, che parallelamente contribuiscono anche al miglioramento della qualità dell'aria grazie all'azione di purificazione che ha il verde sull'aria stessa. Ci sono poi gli altri effetti positivi che ritengo estremamente importanti dal punto di vista ambientale, che le superfici verdi garantiscono un aumento delle superfici urbane in grado di assorbire l'acqua piovana e quindi regolarizzare i deflussi delle acque stesse, tema oggi importantissimo nelle città. Poi abbiamo dei vantaggi su scala edificio, che sono legati all'aumento dell'inerzia termica delle superfici dell'edificio, e questo determina un vantaggio sia in termini energetici che di comfort, soprattutto in periodo estivo, in quanto l'aumento dell'inerzia evita il surriscaldamento degli ambienti occupati dalle persone. Oggi queste tecnologie sono tecnologie ormai affidabili e testate, e addirittura si stanno scrivendo degli standard nazionali in modo da definire in modo chiaro quelli che sono i loro principi di dimensionamento e progetto. Torniamo in studio, ma solo per pochi secondi, giusto il tempo di spostarci con la mente a New York, dove la vecchia ferrovia sopraelevata di Chelsea è stata trasformata in un parco lineare lungo oltre 2,5 km, ma largo solo pochi metri, che attraversa la città dal Meatpacking District fino a Manhattan. Il parco si chiama High Line ed è un luogo, insomma, quasi surreale. Ce lo descrive Salvatore Caschetto, che è studente di architettura, tra l'altro impegnato in questi giorni a chiudere una tesi proprio sulle smart city, e che ci ha raccontato così le sue impressioni. Sentite. Un parco lineare, appunto, dove si alternano varie modalità di impiego della vegetazione, da vegetazione bassa a parti in cui riesci anche a dimenticare di essere nella città di New York, dove gli alberi si fanno alti e ad un certo punto scorgi una New York che viene vista da un punto di vista diverso, perché in fondo sei alto 9 metri da terra e quindi riesci a vedere New York in un altro punto di vista. E poi ci sono lo stupore, diciamo, anche del passante, perché è un parco dove si aprono degli scenari metropolitani, come un teatro dove tu riesci a vedere la scena in movimento metropolitana, quindi di una città che scorre, che fluisce, piuttosto che queste panchine, queste sedute che vengono fuori dal pavimento come se fossero così in un film di fantascienza, ma nella sua semplicità riesce a dare una grande forza a questo parco lineare, che è un'opera di riqualificazione urbana veramente molto interessante. Che cosa facevano le persone che ha incrociato su questo strano parco? Erano parco. Più turisti o newyorkesi, ecco, per esempio? Guarda, quando sono andato io, che era anche un po' in un'ora serale, erano più turisti. Tanti turisti stupiti un po' anche da una New York, ecco, un po' più bassa rispetto a quella che siamo abituati a vedere. E erano più turisti affascinati dal paesaggio, perché in fondo hai una vista sul mare, su una New York che si inizia a illuminare, perché appunto, essendo io andato in un'ora serale, anche il parco si colora di luci diverse, questa vegetazione un po' secca che in realtà inizia ad essere rossa con le luci soffuse, è una roba veramente molto molto affascinante. Anche oggi siamo in chiusura, ci sentiamo domani. Buona serata.